Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Grazie Rachele per permettermi questa breve incursione all'interno di Minerva. Io oggi sono qui per presentarvi il ciclo di appuntamenti a cura di Altre Velocità dal titolo Domani è un altro mondo. Si tratta di fatto di una serie di incontri pubblici che sono pensati prevalentemente per i giovani, ma non solo, perché in realtà si estende a tutta la cittadinanza questo evento. Evento che nasce all'interno del progetto Così sarà la città che vogliamo di Earth. Domani è un altro mondo ha come intento primario quello di mettere in luce tutta una serie di temi, di questioni che siano in grado in qualche modo di stimolare e di alimentare la riflessione attorno alla città e al suo rinnovamento. In modo particolare, adesso che con la pandemia ci vediamo a affrontare tutta una serie di cambiamenti molto profondi della nostra società e con cui ci ritroviamo inevitabilmente a fare fronte. E quando cominciamo? Cominciamo giovedì 22 aprile alle ore 18 con l'incontro nella Casa di Cristallo, Infanzia e Città ai tempi della grande epidemia. Altre Velocità incontra Marco Baliani. Tutti gli incontri si tengono in diretta online sulla pagina Facebook di Altre Velocità e a questo incontro con Marco Baliani segue quello del 30 aprile, Fotografare l'Apocalisse, cambi di sguardo per un mondo in crisi. Altre Velocità incontra Michele Lapini e Michele Smargiassi. Si parlerà di fotografia, città e antropocene. A questo segue il 7 maggio. C'era una volta il futuro. Che fine ha fatto l'underground? Incontreremo il collettivo Zimmerfrei che nel suo percorso artistico ha indagato delle connessioni fra gruppo e singoli, fra i limiti materiali e le aspirazioni utopiche, e con loro cercheremo di ragionare attorno al futuro, anzi, che cosa significa porre al centro il futuro nel nostro agire all'interno del nostro presente. Concluderemo poi in bellezza il 26 maggio, dico in bellezza perché non sarà totalmente online quest'ultimo incontro, ma si terrà presso il chiostro dell'Arena del Sole in via Indipendenza 44 e per chi non potesse esserci potrà seguire questo incontro sempre online, ma sarà in forma di talk radio live, quindi cercheremo di ricreare un piccolo studio, una piccola radio dal vivo insieme al gruppo Sotterraneo, insieme a Collettivo Cinetico e alla compagnia Kepler 452. Cercheremo di dialogare a partire appunto dagli scenari che sono al limite della fantascienza, quelli che di fondo ci ha proposto la pandemia. E ci chiederemo che cosa possa fare il teatro contemporaneo. Può per caso continuare a essere antenna per produrre nuovi immaginari? Insieme cercheremo di ragionare attorno a questa macro domanda e costruire dei dialoghi. Quindi sarà una giornata molto ricca di contenuti. Noi quindi vi aspettiamo numerosi, intanto già giovedì 22 aprile con l'incontro con Marco Baliani nella Casa di Cristallo, Infanzia e Città ai tempi della grande epidemia. A presto. Buona giornata a tutti.